A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti anche da parte di Gigi Borghi in redazione, di Giacomo Spunti in regia. Un sacco di notizie in questo sabato 25 aprile, gonfio di sport. Nel GR avete sentito che Trulli e Glock, quindi le due Toyota, occupano la prima fila in Bahrain, la occuperanno domani alle 14 quando scatterà il Gran Premio. Vettel, Button per la seconda fila, Hamilton, Barrichello per la terza, quindi Alonso, Massa con la prima delle Ferrari ottava, e non è un gran risultato, però con questi chiari di luna bisogna accontentarsi. Decimo è Raikkonen accanto a lui e prima di lui partirà Nico Rosberg, via via tutti gli altri. Questo in Bahrain. In Giappone a Motegi invece diluvio universale sulle prove che non si disputano, e quindi domani mattina alle 8 varrà per la griglia di partenza della classe GP del moto mondiale, varranno i tempi delle prove libere, cioè Rossi, Stoner, Lorenzo, questi tre davanti a tutti. Altre notizie di sport ci dicono che l'Italia conduce 2-0 sulla Russia nella semifinale di Fed Cup laggiù in Puglia, parleremo anche di questo. Pennetta che batte in due set Tsakhvetadze, e quindi Schiavone che in una lunghissima partita in tre set supera la Kuznetsova, quindi confronto iniziato come meglio non poteva. Dalle strade del ciclismo invece arriva la notizia che mancava da 3 anni, Ivan Basso torna a vincere. Vince il Giro del Trentino, ultima tappa che va a Di Luca, insomma pezzi da 90 già in piena forma Giro d'Italia. Parleremo di tutto questo dopo aver aperto la nostra parentesi sul rugby. Palla ovale. Buongiorno Giacomo Bagnasco. Buon pomeriggio Carlo, buon pomeriggio a tutti. È un sabato 25 aprile in cui almeno il rugby non c'è in mezzo a tutto questo sport, perché c'è stato il turno infrasettimanale, perché si giocherà domani una domenica ricca di significati ovali, non solo nel massimo campionato ma anche in Serie A, dove l'Aquila torna in campo, e vi invito a leggere ad esempio un magnifico servizio a pagina 54 di Repubblica di oggi di Corrado Sannucci dal titolo Orgoglio e dolore, il ritorno dei ragazzi del rugby L'Aquila. Giacomo. Eh sì, L'Aquila torna in campo dopo che ha ripreso ad allenarsi da una settimana grazie all'ospitalità ottenuta a Roma per l'interessamento della federazione e del CONI. La squadra neroverde, lo ricordiamo, gioca in Serie A in seconda divisione, domani gioca a San Donà, e proprio il comune di San Donà ieri ha deciso di intitolare una via a Lorenzo Sebastiani, il rugbista ventenne che è morto a causa del terremoto. Sono situazioni che si intrecciano. I giocatori aquilani dopo il match si sposteranno a Padova, perché a Padova c'è un evento straordinario che si chiama Veneto Derby Day. Le società venete di vertice, che non hanno mai brillato per concordia, hanno immediatamente deciso questa novità di dar vita a questo evento. Si incrociano due derby, Benetton Treviso, Femici Zeta Rovigo, Carrera Petrarca Padova, Casino Bene, si giocheranno nello stesso posto a Padova, al plebiscito di Padova, prima Benetton Rovigo e poi Carrera Casino Venezia. È un segno importante, il ricavato, l'incasso delle due partite andrà a favore delle popolazioni terremotate, così come succederà anche per quanto verrà ricavato da alcune iniziative collaterali. Il Veneto si ritrova unito e c'è anche un risvolto che va oltre l'attualità, nel senso che per la prima volta il Benetton Treviso ha aperto alle altre società in chiave Celtic League. Potrebbe esserci una franchigia unica delle quattro maggiori società venete, potrebbero risorgere i Dogi, selezione molto nota e molto apprezzata di 20-30 anni fa, e questa è una novità con cui bisognerà fare i conti. Sicuramente una candidatura che si rafforza tra Celtic League, come si rafforzerebbe la candidatura tra virgolette padana se le due franchigie possibili, quella del Parma e quella del Viadana per intenderci, si unissero. Quindi ci sono movimenti e bisogna trovare delle soluzioni credibili. Questa sembra la strada giusta e in vista della conversione delle massime, delle più alte risorse del rugby italiano di società, dal Super 10 alla Celtic League. Certo. Domani comunque si gioca in Super 10, partite interessanti perché ci sono 5 squadre che si giocano 4 posti, nessuna a 3 giornate dalla fine è già sicura di essere ai playoff, mentre in coda una certezza pare raggiunta, l'Almaviva Capitolina è ultima e potrebbe ancora salvarsi, ma ha già annunciato che l'anno prossimo rinuncerà all'attività signore. E dunque qualcosa si muove in prospettiva Celtic League, ancora tutto si deve muovere invece in prospettiva playoff e campionato. Naturalmente torneremo a parlarne. Grazie Giacomo, alla prossima. Grazie a voi. Torniamo per un attimo in cronaca, tra poco ci collegheremo con Mario Poltroneri, con cui parleremo di auto e di moto, di prospettive, di sogni e di disfatte probabili, nuove e probabili, quelle della Ferrari. Domani in Bahrain si annuncia un'altra corsa in salita, se ce n'è una. In cronaca invece vi do i parziali della Serie B di calcio, che sono questi, insomma siamo al 20° del secondo tempo, il Bari capolista conduce 2-1 sul campo dell'Albino Leffe, doppietta di Barreto e gol di Cellini, il Modena risultato molto sorprendente, sta vincendo 2-0 a Livorno in questo testa coda. Brescia-Mantova 0-0, Grosseto 1, Vicenza 0, Frosinone-Pisa 1-1, così come Piacenza-Empoli, Rimini in vantaggio 2-1 sull'Avellino, Sassuolo-Ascoli 0-0, Treviso 1, Triestina 0, questi tutti i parziali. Prima della fine del programma i finali, vi invito anche a partecipare al nostro programma, naturalmente come ogni sabato siamo in diretta, 800 24 00 24 è il numero verde. Sto andando un po' di corsa perché gli eventi sono davvero tanti da raccontarvi e vorrei a questo punto raccontarvi la doppia vittoria italiana alla Fed Cup in Puglia. Aldo Mea, buonasera. Buonasera Carlo, e in effetti sì, ancora fresca la gioia delle atlete azzurre che hanno in realtà quasi affondato la corazzata russa, una sorta di ammutinamento da parte di quelle che la stessa Francesca Schiavone aveva definito, attenzione, siamo tutte leonesse. E così è andata Flavia Pennetta nel match di apertura della semifinale di Federation Cup qui al complesso in Terra Rossa di Nova Iardini a Castellaneta Marina in provincia di Taranto, ha battuto in agilità Anna Chakmetadze col risultato di 6-4, 6-0, tanto gioco da fondo campo nel corso del primo set e un doppio fallo sul 3-2 della Pennetta consente all'avversaria di rientrare in partita, ma quel set finisce lì perché poi si vola la brindisina sul 6-4 sfruttando il primo dei due set balls a disposizione. E già nel primo game del secondo set la Pennetta apre dimostrando di essere la vera padrona tattica del match, infatti scivola via lucida e impeccabile la prestazione dell'atleta azzurra, ricordiamolo numero 14 del ranking mondiale, e sfrutta il primo dei tre match ball per chiudere 6-4, 6-0. Pennetta in discesa sulla Chakmetadze invece una rimonta, quella ed entusiasmante per i 4.000 del centrale di Nova Iardinia da parte di Francesca Schiavone sulla numero 9 al mondo Svetlana Kuznetsova. Il primo set infatti si è chiuso in meno di mezz'ora in favore della russa, una sequenza lunga di deuce sul risultato di 3-1 e lì si è spenta la resistenza della Schiavone nell'arco del primo set, sembrava quasi finita e invece comincia lì la rimonta della vera leonessa d'Italia. Il 6-2 del secondo set viene concretizzato quando sul 6-2, sul 5-2 Francesca annulla ben 3 vantaggi della russa e poi a quel punto va sul 6-2 e sull'1-1 annullati altri 5 vantaggi. Questi sono i passaggi chiave, probabilmente tecnici ma sicuramente i passaggi chiave, perché la Schiavone come la Pennetta hanno vinto di testa. Infatti soprattutto sul 4-2 e sul 5-3 hanno strappato, la Schiavone ha strappato il servizio alla Kuznetsova per chiudere in trionfo 6-3. Dicevo, hanno vinto di testa perché soprattutto nel caso della Kuznetsova si è assistita a una prova nella quale ha esibito un incroci di dritto veramente implacabili, ma per il resto ha cercato sempre di imporsi con la forza. Sai Aldo, si sapeva che la Kuznetsova, insomma, entrambe sono reduce da un 2009 non tanto positivo. La Kuznetsova è una tennista fortissima ma non così solida dal punto di vista mentale, e probabilmente la vittoria della Pennetta, come si auspicava, ha messo pressione sulla avversaria della Schiavone, che ovviamente ha fatto come sempre la sua parte. Grazie Aldo, ci sentiamo domani. Ciao, a domani. A domani con Aldo Mea. Andiamo sempre di corsa e sulle corse dei motori. Mario Poltronieri, buongiorno. Buongiorno, ciao Carlo. Trulli e Glock, allora. Trulli e Glock, Toyota che insomma prova a raccogliere qualcosa dei suoi mille sforzi. Vettel, Button, Hamilton, Barrichello, Alonso, Massa, Rosberg, Raikkonen, Kovalainen, Nakajima. Quindi le due BMW di Kubica e Heidfeld. Domani si parte così in Bahrain, Mario. Sì, esattamente. Diciamo che per Trulli è la quarta pole position. Monte Carlo e il Belgio nel 2004, Indianapolis nel 2005. Quindi è già un risultato interessante e importante per un pilota italiano. Diciamo che le Toyota hanno avuto Glock stamattina e Trulli, diciamo, nel pomeriggio, qualche disturbo ai freni. Ma il problema più grosso, credo, per tutti quelli che fanno la corsa è questo caldo fortissimo. Il timore che sta rientrando, ma però visto che non piove una tempesta di sabbia, ma pare scongiurato, sì. Almeno a questo momento, e soprattutto appunto in una corsa così lunga, l'affidabilità e la tenuta delle vetture, perché questo caldo stressa le gomme, il motore, ovviamente il pilota. E Domenicali, nell'ultima dichiarazione che ha fatto, ha detto: beh, il nostro obiettivo è vedere di arrivare a punti, questo è il massimo. Naturalmente dobbiamo sperare nell'affidabilità, che era poi tutto sommato il tallone d'Achille della Ferrari. Però io credo che sia una corsa che una volta di più ci dimostra che quest'anno queste rivoluzioni hanno portato anche più spettacolo. Ma certo. Tra le cose curiose, a proposito sempre di dati e risultati, c'è da dire che i più veloci sono gli ultimi, cioè nel punto di maggior velocità il più lento con 304 all'ora è seguito dal compagno Glock, Rosberg, Nakajima, Vettel e Webber, Barrichello e Button, cioè il pacchetto di quelli più veloci. Il più veloce invece è Giancarlo Fisichella, 313,4. Però se si va a vedere la parzializzazione della pista, si va a vedere il secondo tratto, si vede che lì appunto Vettel, Glock, Button, Barrichello, Trulli sono i più veloci ed è il tratto misto di questo circuito che ha poi due rettilinei lunghi, quindi evidentemente la tenuta di strada, diciamo così, appunto la maggiore aderenza, certo, è fondamentale in questo circuito. Però la gara è così lunga che, come dice Massa, speriamo, vediamo. Insomma, l'obiettivo Ferrari è di arrivare a punti. Sì, di arrivare a punti e di limitare un po' i danni. No, Mario, ti sentivo parlare di possibili tempeste di sabbia. Sì, ma molto lontana, è andata diminuendo nel corso della giornata. In Giappone non piove. Piove a diluvio, diluvia, acqua, catinelle, non ci sono state le prove. Le prove per la griglia di partenza valgono i tempi delle libere con Rossi, Stoner e Lorenzo. Valentino Rossi stesso che dice: beh, non mi è sembrata una grandissima idea quella di venire a correre ad aprile in Giappone. Ricordiamo la pioggia del Bahrain, insomma la possibile tempesta di sabbia di cui dicevi, sfidiamo gli elementi, circuiti in mezzo al deserto, in mezzo al nulla, in mezzo a dove vuoi tu, però facciamo i conti anche con gli elementi naturali, perché ecco, dimmi. Sì, ho la sensazione comunque che Rossi sia più favorito di quanto era nella gara precedente, perché lui è riuscito a provare anche di più nella prima parte delle prove, quando c'era bagnato, che era la sua preoccupazione di ieri, cioè quella di dire: non abbiamo provato col bagnato e si pensa che pioverà, quindi bisogna che io provi. Quindi io credo che lui sia abbastanza favorito in questo caso nei confronti di Stoner, e tenendo presente però che in prima fila parte Vermeulen, che è un mago della pioggia. Sì. Se dovesse piovere, anche quello sarà un elemento interessante da vedere. Un sacco di elementi di cui parlare domani pomeriggio, Mario, con i risultati in mano. Senz'altro. Buon divertimento a tutti. Grazie, grazie a Mario Poltronieri, che ovviamente ritroveremo domani. Adesso sono le 17:25, è l'ora di un appuntamento molto particolare con Andrea Zorzi. Il segno di Zorro. Andrea Zorzi, che oggi è collegato con noi, perché oggi non parleremo esattamente di pallavolo, di playoff, di campionato italiano, parleremo di qualcosa di molto più importante, se me lo consentite e se non vi offendete, se non si offende Andrea Zorzi. Ciao Andrea. Ma neanche un po', figurati. Ciao a tutti e ritrovati. Parlate di una splendida Gerusalemme, una città vecchia che si sta pian piano svuotando. Oggi sabato, quindi momento particolare per gli ebrei, una situazione davvero unica, con, non potete immaginare, tutte le gente del mondo che si ritrovano in un punto particolare. Io vi giuro che ho la pelle d'oca. Allora, Andrea Zorzi, come gli ascoltatori di Radio 24 sanno, in questa settimana è stato laggiù, in quei luoghi meravigliosi quanto tormentati, per una maratona simbolo, Betlemme e Gerusalemme, Andrea. Sì, è una maratonina, nel senso che la distanza va di quanto 2 chilometri ed è una corsa non competitiva. Certamente. Lo si fa principalmente per fare in modo che israeliani e palestinesi possano condividere un pezzo di strada almeno. E mi ha confermato in questi giorni il padre Ibrahim, che è, diciamo, un referente, lui è cattolico, di origine egiziana, e quello che viene considerato per gli israeliani e per i palestinesi il referente di queste operazioni. Lui è quello che dare il nome dei palestinesi che corrono, e mi ha detto che per nessun'altra ragione, niente soldi, dopo la guerra di Gaza, israeliani e palestinesi avrebbero fatto qualcosa insieme. L'hanno fatto in questa maratona. L'hanno fatto, come sempre avviene, per un pezzo, perché per legge gli israeliani civili non possono entrare in territorio palestinese. E voi sapete che Betlemme è divisa dal muro, ma è in territorio palestinese. Quindi si parte dalla piazza di Betlemme, si fanno 3 o 4 chilometri fino al varco del muro. A quel punto c'è l'incontro tra le autorità palestinesi e israeliane, e si aggiungono anche i podisti israeliani. Quindi negli ultimi anni, per evitare che la parte finale venga forse solo da italiani e palestinesi, il percorso è inverso. Che questo porti veramente la pace non te lo so dire, che questo sia veramente un passo in avanti io e tanti altri non lo sappiamo, è che questa maratona si fa da 6 anni, alcuni palestinesi giovani sono usciti solo per questa occasione, e già questo mi pare essere la fine, una buona ragione per continuare a farlo. Non c'è dubbio, valgono e pesano tantissimo quelle parole che tu hai citato. Nemmeno per soldi sarebbero riusciti a fare qualche cosa insieme israeliani e palestinesi. Non l'ho detto io, l'ho detto uno quotidianamente tra Betlemme e Gerusalemme, ed è questa la realtà. E questa è la realtà. Andrea, per chiudere, tracce di sport che stai trovando su queste strade, su questi percorsi? Naturalmente radicalmente diverse, pochissime male organizzate in Palestina, se non fosse altro perché non ci sono infrastrutture, pochissimi palazzi dello sport. C'è un campo di basket, solo uno a Betlemme regolamentare, in cui vengono a giocare da Ramallah e da Jenin, che sono città distantissime. Gli atleti si spostano con difficoltà perché devono passare in territorio palestinese, devono avere il permesso, lunghe code. In territorio israeliano naturalmente tutto molto più organizzato. Tu che sei un grande amante del basket sai che il Maccabi è stato, insomma, il modo in cui gli italiani hanno detto anche noi siamo sulla mappa, questo risale qualche anno fa, quindi c'è lo sport anche di alto livello. Però è vero che anche Israele soffre di una situazione di conflitto costante. C'è il Beit Lochem, di cui ho accennato anche in settimana, che è un club riservato ai reduci di guerra e loro familiari, che nelle tante guerre israeliane hanno perso arti o sono ancora feriti, e quindi anche lo sport professionistico che Israele in qualche modo è in grado di organizzare poi vive realtà tormentate, perché qui i conflitti sono veramente a contatto. Andrea, ti mandiamo un abbraccio. A prestissimo, ci vediamo. In questo spazio a sabato prossimo, poi naturalmente Andrea Zorzi ancora per raccontare questa esperienza meravigliosa. Bella notizia di giornata sulla Gazzetta, prima pagina, foto gigantesca di Ibrahimovic e di Adriano, la coppia che non c'è più, casa Inter, Ibra è stufo, Adri è fuori, Adriano ieri ha risolto. Sul Corriere della Sera praticamente 2 pagine dello sport dedicate più che altro ad Ibrahimovic. Ibra, vado via. Tutto ad opera della penna di Fabio Monti. Ciao Fabio. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a te. I capricci di Ibra, direi, che riportano un po' alla mente, almeno la mia, così come flash, quelli di Ronaldo del 2002, non è detto che non finisca allo stesso modo. Sì, sì, è abbastanza simile la cosa, anche se magari con motivazioni differenti. Infatti il punto di equilibrio sarà cercare di capire a quanto l'Inter dovrà darlo via, se lui davvero si impunterà, insomma, perché poi questo è sempre il punto, perché i giocatori poi alla fine cercano sempre di avere ragione, di forzare il blocco. Sì, una vicenda comunque che rimane antipatica quanto quella di Ronaldo, il tutto è un po' antipatico. Sì, solo che comunque vada, finisca prima del 31 di agosto. A mezzanotte, come era successo con Ronaldo, e con quella fuga in mezzo ai tifosi inferociti, come in mezzo ai carabinieri, certo. Però ripeto, è tutto un mezzo un po' antipatico. È come se tu, Fabio Monti, dicessi: scrivo sul Corriere, mi trovo bene, però vorrei andare alla Gazzetta per scrivere di che ne so io. Insomma, è tutta una vicenda un po' strana. Ibrahimovic ha queste smanie di pallone d'oro e di Champions League, vuole andare in una squadra in grado di vincere la Champions League, come se non fosse una sola la squadra che vince ogni anno la Champions League, come se l'Inter non fosse una squadra che ha quell'obiettivo nel mirino, come se Ibrahimovic si fosse dimostrato fin qui giocatore in grado di dominare la Champions League. No, certo, infatti era in in campo nelle due partite con il Manchester. Le partite internazionali e europee le ha giocate anche negli anni passati, non è che l'eliminazione sia stata colpa sua, però evidentemente è stata tutta la squadra che per tanti motivi e per tante non ce l'ha fatta. Senti Fabio, tu conosci molto bene l'ambiente interista, onestamente quante probabilità ci sono che Ibrahimovic, domanda banale, però quante probabilità ci sono che vada via? A differenza di quanto dice anche oggi Mourinho, che dice sono certo che resterà, secondo te resta o va? No, secondo me però sono curioso di vedere come va, perché l'ultima volta che si era parlato seriamente di questo col Presidente, ed era stato durante dopo l'Assemblea federale di fine marzo, quando Ibrahimovic aveva manifestato forse per la prima o per la seconda volta il desiderio di andare via, il Presidente era stato molto chiaro che tutto ha un prezzo, insomma. Sì. E mi sembra anche giusto, insomma. Ibrahimovic non è stato regalato all'Inter, non vedo perché l'Inter lo debba regalare a un altro club, insomma. No, come peraltro tu sottolinei, comunque l'Inter è giusto che privandosi di Ibrahimovic faccia l'affare, perché la plusvalenza in questo caso merita di essere cospicua. Poi c'è da sistemare anche la questione dell'ingaggio, perché se Ibra ha pensieri spagnoli, ad esempio pensieri di Barcellona, beh, lì Messi prende 7 milioni e mezzo di euro l'anno, se non ricordo male, Ibra ne prende 12 da Moratti, quindi anche lì ci sarebbe da sistemare la questione ingaggio, eh? No, ma infatti non credo che trovi un altro club che gli possa dare più, certo, soldi di ingaggio. Fabio, l'Inter con, mettiamo che Ibrahimovic vada via, con l'attacco tutto da rifare, però a quel punto. Sì, ma può non essere un handicap, insomma, anche perché comunque l'Inter è una squadra un po' da rifare, arrivata a questo punto, insomma. È una squadra da ringiovanire, da risistemare un po', perché comunque ormai sono 5 anni che questo nucleo c'è, poi con alcuni mesi, per esempio quello di Ibrahimovic e di Vieira 3 anni fa, però sostanzialmente la squadra ha bisogno un po' di essere, non dico ricostruita, ma ristrutturata. Questo sì, proprio per un fatto anagrafico, perché sono state comunque stagioni molto impegnative. Certo, per chiudere dare un'occhiata anche all'altra parte di Milano, perché c'è questa assemblea c'è stata ieri questa assemblea dei soci milanisti imbufaliti con Galliani. Battaglia verbale e conti sul tavolo oltre 66 milioni di euro di buco che la proprietà è chiamata a coprire. Quale futuro vedi invece per il Milan? Futuro immediato? Fra... No, ma io credo che faranno una squadra assolutamente competitiva. Sono abbastanza sorpreso da questa reazione dei tifosi milanisti. C'è un proverbio milanese che dice lamentarsi di gamba sana, insomma. Con tutto quello che ha vinto il Milan mi sembra che potrebbero stare un pochino tranquilli, insomma. Sì, no, anche se l'ultima campagna acquisti può non essere stata del tutto convincente dal punto di vista tecnico, insomma. Però il Milan ha sempre investito, quest'anno probabilmente farà delle correzioni e sistemerà un po' la squadra, che non sia andata in Champions League un anno può anche capitare, insomma. In fondo è arrivata l'ultima giornata e se l'è giocata e non è andata bene. Certo. Beh, ma queste assemblee dei soci, dei piccoli azionisti, che sono una distorsione del calcio di oggi, non sono esattamente quelle aziendali, sono delle specie di bar sport. No, certo, no, che il Milan non abbia più la linearità nelle campagne acquisti che aveva una volta e che gli consentivano di vincere, questo è vero. Però non mi sembra che sia il caso di mettere sotto processo o i dirigenti del Milan, insomma. No, penso anch'io. Grazie Fabio, buon lavoro. Grazie davvero a Fabio Monti. Come la pensate su Ibrahimovic? Ditemelo se volete. 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349-238-6666. Voglio farvi sentire un po' di voci di oggi, visto che stavamo parlando di Ibrahimovic. L'ha fatto naturalmente nella conferenza stampa di oggi, che precede Napoli-Inter di domani sera, anche José Mourinho, che ha un'idea su Ibrahimovic. Sentiamola. Deve parlare prima con il presidente che ha il potere di dire al 100%. Ti immagini che il presidente vuole vendere Ibra per 5 milioni di euro? Lo vende domani, facile. Per 5 milioni di euro lo compro io. Anche per 10 lo compro. È un investimento, adesso sono difficili in banca. Io per 10 milioni lo compro. Quindi lo compra lui, lo compro io. Beh, però non credo che quei 5-10 milioni di euro possano bastare. Sempre su Ibrahimovic, Mourinho di oggi. L'intervista puoi interpretare come vuole. Tu puoi fare uscire del modo che ti piace più a te. Io conosco l'intervista da 15 giorni. E quello che lui dice non è diverso di quello che dice Tevez, di quello che dice Kakà, di quello che dico io, di quello che dice qualcuno che non vuole dare un'immagine di chi vuole restare per tutta la vita nello stesso club. Se tu vuoi interpretare quello che dico io quando dico ho vinto Premiership, posso vincere Scudetto, mi piacerebbe vincere il Grand Slam, che per me è Grand Slam del calcio europeo, è campionato di Spagna, d'Italia e di Inghilterra, tu puoi subito dire Mourinho va andare via dall'Inter. Io ti dico di no, io ti dico al 100% che il prossimo anno sarò qua. Lui dire che ha vinto tutto in Italia, che è felice nell'Inter, che sta bene, però chi ha una visione di un giorno giocare un altro calcio, un altro paese, un altro club, mi sembra assolutamente normale, abbastanza normale, e non vedo nessuno dramma. Non vede nessun dramma e spegne i fuochi José Mourinho. Ma domani, come detto, domani sera c'è anche Napoli-Inter, che è una partita molto interessante, soprattutto perché il Napoli, insomma, deve invertire una tendenza pericolosa fatta di 4 pareggi e una sconfitta domenica scorsa. E l'Inter si mette alla finestra, al balcone domani pomeriggio, vede cosa fanno le più immediate inseguitrici, che peraltro sono laggiù in fondo, e poi domani sera va in campo a Napoli. Su questa gara Mourinho ancora: partito con Sampdoria, come ho detto ai miei giocatori prima della partita, come minimo doveva essere una partita divertente per noi, divertente nel senso di andiamo fino alla fine con speranza, con gioco, con aggressività mentale, con intensità di gioco. E è stato divertente, sì. Purtroppo con il risultato che non volevamo, però è stato divertente e abbiamo lasciato il campo con un'immagine molto positiva. A Napoli è una partita diversa, in quanto che la partita con la Sampdoria è una partita di rischio. Questa partita è una partita dove noi abbiamo tutto il contrario del rischio. Abbiamo 10 punti in più e chissà in quel momento 7 punti in più se i nostri avversari diretti vincono prima di giocare con noi. Entrare in campo con 7 punti di più è gestione di un patrimonio che noi abbiamo vinto dentro di campo, giocando ogni minuto di ogni partita da agosto che lo facciamo, e siamo in questa posizione privilegiata perché lo abbiamo dato tutto in campo e perché abbiamo fatto meglio degli altri. E dobbiamo giocare questa partita con tranquillità, però con ambizione. Con l'ambizione di vincere Scudetto. Con l'ambizione di fare 8-9 punti che abbiamo bisogno, pensando che la Juve e che il Milan vincono tutti i partiti fino alla fine, senza aspettare che loro danno la possibilità a noi di fare solo 4-5-6 punti e essere campione con 4-5-6. No, dobbiamo pensare che loro vincono tutti i partiti e che abbiamo bisogno di vincere questi 8-9 punti. Questo era José Mourinho. Ci fermiamo un attimo per il traffico, poi vi faccio sentire anche che cosa dice Donadoni su questo Napoli-Inter di domani sera, e sentiremo anche Carlo Ancelotti, che ogni volta deve andare lì a dire, credo 2-3 volte a settimana, non meno, no, non vado al Chelsea, rimango al Milan, non vado da nessuna parte, bah bah bah. Poi lo risentiamo, è di oggi, ma poteva essere di ieri, dell'altro ieri, di un mese fa. Se si scrive, non solo la Rosa ha finito un ciclo, ma anche alcuni dirigenti come Branca, Paolillo e all'Inter andrebbero rinnovati. Chi scrive questo? Altri scrivono, finalmente si leva dalle... eccetera, Ibrahimovic, perché tifosi interisti alcune cose non gliel'hanno ancora perdonate, non riescono a perdonargliele. Altre, insomma, hanno già dato e già vissuto, ad esempio con Ronaldo, come si diceva prima, su questi signori che guadagnano così tanti soldi, che sono lì fino a quando fa loro comodo e che poi vogliono andare via. Però voglio farvi sentire anche Donadoni sulla partita di domani, ma prima di passare ad un paio di ascoltatori. Donadoni. Indipendentemente dal fatto che abbiamo perso domenica scorsa a Cagliari, sappiamo il valore dell'Inter, sappiamo che cosa significa questa partita. Sappiamo anche di essere in un momento un po', come dire, difficile per quanto riguarda soprattutto i difensori, perché siamo con uno squalificato, abbiamo Rinaldo che è infortunato, abbiamo Grava che ha problemi con qualche linea di febbre, ieri non si è allenato, oggi Blasi anche abbiamo avuto, che è un centrocampista, con questi problemi, Santa Croce con una distorsione, quindi probabile che non ci sarà nemmeno lui, però chi andrà in campo sa che questa è una grande opportunità, una grande occasione, ce la metteremo tutta. Questa è la Donadoni. Chiudiamo la carrellata delle conferenze stampa pre-partita sentendo Ancelotti, su, come al solito, sul suo futuro. Ma assolutamente no, è una cosa che non ho chiesto, il rinnovo del contratto, come è stato tante volte detto e scritto, perché non c'è bisogno di rinnovare il contratto. Credo che qui non è solo un rapporto, col Milan non si tratta solo di una questione professionale legata alla durata, si tratta di un rapporto che è andato molto bene, avanti molto bene in questi anni, che può continuare ad andare avanti, ma non c'è bisogno di mettere nessun tipo di pressioni e non ho nessun desiderio di avere determinate garanzie. Le garanzie mie sono di avere una perfetta sintonia con chi lavora con me, questo a me basta e avanza. Anche per gestire il futuro. Questo è Ancelotti e quello che sta per parlare invece è Alessio D'Ancona. Buongiorno. Alessio. Buonasera. Buonasera, dica. Senta, volevo intervenire per il discorso che riguarda Ibrahimovic. Sì. Secondo me è un'opinione personale. L'Inter di grandi attaccanti ne ha sempre avuti, da Vieri a Ronaldo a lo stesso Ibrahimovic. Sì. Risultato che in Europa non riesce a vincere da tanto tempo. Sì. Quindi secondo me la cessione di Ibrahimovic potrebbe essere un buon motivo per ricominciare a organizzare una squadra, diciamo, che abbia un progetto di gioco magari più importante, senza dipendere sempre da un attaccante di grande valore, di grande spessore come è anche Ibrahimovic. E si potrà vedere anche veramente il valore di questo allenatore. Sì, certo. Tutti lo chiamano Special One. Vediamo se lo è veramente. Dietro a un microfono lo è sul serio, lo Special One, José Mourinho. Sul campo dobbiamo ancora capirlo fino in fondo, ma d'altra parte si è detto, scritto molte volte che questa squadra è grosso modo ancora quella, come imprint, ancora quella costruita dal suo predecessore Roberto Mancini. Poi sono d'accordo sul fatto che l'Inter, insomma, dovrà ricostruire integralmente l'attacco con la partenza di Ibrahimovic, ma non sono gli unici interventi necessari per un Inter un po' a fine ciclo, per un Inter che sarà necessariamente diversa non solo davanti nel prossimo futuro. Anche a centrocampo, secondo me, continuo a ripeterlo, manca qualcosa, manca quel leader tecnico in grado di prendere in mano non solo emotivamente ma anche proprio tecnicamente le redini della squadra. Giovanni Lamezia Terme, buonasera. Buonasera, complimenti per la trasmissione innanzitutto. Grazie. Io volevo intervenire su... Mi abbassi la radio però, Giovanni, grazie. Sì. Su Mourinho, sì. È quello che secondo me è un fallimento, perché già rispetto a Mancini, che secondo me non è un grandissimo tecnico, ha fallito in tutto, tranne che nella comunicazione, nel senso che meno male Mancini arrivava in finale di Coppa Italia. La campagna acquisti è stata fallimentare, ha speso 50 milioni di euro per Quaresima e Mancini, due giocatori, uno che l'hanno dato in prestito e l'altro che non è un aggetto misterioso. però Giovanni, mi perdoni, ma se parliamo di fallimento con uno scudetto vinto praticamente, mi sembra che siamo un po' fuori strada, ecco. No, il discorso è perché con la squadra che c'ha, e l'ha detto anche Mazzarri nell'ultima partita, è chiaro che non è che abbia fatto chissà quali grandi abbia, come dire, coperto il gap che c'era a livello internazionale, che doveva... L'obiettivo principale dell'Inter è la Coppa dei Campioni. Ma l'obiettivo principale di un sacco di squadre. Di un sacco di squadre. Però guarda, io sono tifoso milanista, no? E quindi non capisco nemmeno i piccoli azionisti che si lamentano. Cioè, l'Inter da 40 anni non riesce nemmeno ad arrivare in finale in Coppa. Ho capito, ma ci arrivano in due in finale e una la vince. Quindi a me fa molto ridere fissare come obiettivo la Coppa dei Campioni, la Champions League, l'Eurolega nel basket, perché sappiamo benissimo come sbagli un tempo, un quarto d'ora, un quarto in una partita di basket e sei a casa. Dunque, è chiaro che quello è il sogno, però non si può dire realisticamente punto a quello e tutta la mia stagione è su quello, perché poi se no allora davvero bisogna parlare di fallimenti, cosa che nel caso dell'Inter non è. Sabato a quest'ora il basket, sabato a quest'ora è il momento di Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buongiorno. Sei d'accordo con me? Come fai a dire quello è il sogno, l'Eurolega è il sogno, la Coppa dei Campioni è il sogno, sbagli un dettaglio sei a casa? Questa è una considerazione tecnica validissima. La seconda considerazione è che alla fine vince uno, è il grande insegnamento, uno dei mille grandi insegnamenti di Aldo Giordani. Vince una e partono per vincere in 10 se non in 20. Senti Flavio, invece potrebbe essere la volta di quella, insomma, che ci togliamo la scimmia dalla spalla. Dopo 7 anni la Virtus Bologna può interrompere i 7 anni di carestia del basket europeo. Domani in finale con lo Cholet per un Eurocup che non è il massimo dell'appeal, però è pur sempre un trofeo europeo. No, non è il massimo dell'appeal, non vale i trofei europei che sono stati vinti dal basket italiano prima di questi 7 anni, in cui peraltro ci sono state finali europee, semifinali di Eurolega, e quindi bisognerebbe anche andare un po' al di là del semplice Albo d'Oro per collegarsi al discorso che avevamo appena finito di fare. Però per la Virtus, come dicono i grandi coach tipo della Palis, se vincono è meglio che se perdono. Secondo te domani con lo Cholet che partita può essere? Può essere realmente un ostacolo complicato per la Virtus o è strafavorita? Se non ci fosse un trofeo in palio, non si giocasse a Bologna e quindi ci fosse pressione, sarebbe minimo più 10 se non più 15 per la Virtus. C'è la pressione, c'è il trofeo in palio, ma io penso che vinca la Virtus lo stesso. Di Flavio, con te vorrei fare un passo indietro a ieri. È stato nostro ospite in Palaspicchi Valentino Renzi, presidente della Lega, e si è parlato anche con gli ascoltatori del basket che vorrei. Io sarei curioso di sapere qual è di riforma di campionati, eccetera, eccetera. Sarei curioso di sapere qual è il basket che vorresti tu. Ma guarda, il basket che vorrei io non è tanto quello che vorrei io. Secondo me il basket professionistico, per riuscire ad avere più successo di quello che ha attualmente e che ha avuto negli ultimi 20 anni, gli indicatori sono sostanzialmente stabili in Italia, ha bisogno secondo me di una cosa, ovvero sia di una diversa dinamica a livello economico. Quindi il problema è sportivo in una seconda fase, in un secondo momento. Se ci sono diverse dinamiche economiche, ci saranno più soldi da investire. Più soldi da investire significa migliori giocatori, migliori arbitri, migliori palazzetti, migliori telecronisti, migliori radiocronisti, eccetera eccetera. È lì che bisogna agire, ed è lì che non si vuole agire, o non si sa agire, o non si può agire, per cultura, una serie di paletti, eccetera eccetera. Flavio, per chiudere, poi domani ci ritroviamo abbondantemente, oggi siamo un po' di corsa, un'occhiata ai risultati della notte per quanto riguarda i playoff NBA, con Cleveland che ha praticamente chiuso la serie con quel mistero glorioso che sono i Detroit Pistons, che hanno ceduto un grande giocatore per uno chiaramente a fine corsa come Allen Iverson, e siamo sul 3-0, Philadelphia, una serie molto aperta sul 2-1 con gli Orlando Magic, e altra serie bellissima secondo me, Houston contro Portland, 2-1 per i texani. Forse questa è la serie più bella in assoluto di primo turno, più equilibrata e quella che è più difficile da prevedere. Io penso che gli Orlando Magic siano più forti di Philadelphia, ma sono sotto 2-1, devono fare i conti con qualche problema interno, secondo me. E poi penso che la parola LeBron e la seconda parola James bastino e avanzino. I Pistons si sono suicidati con quello scambio, guardando a oggi. Secondo me tra 2 anni guarderemo a quello sguardo come un capolavoro, a quello scambio come un capolavoro di Joe Dumars, però ci vogliono 2 anni, ci vuole un po' di pazienza. L'ascoltatore di prima secondo me non sarebbe contento. Grazie Flavio, buon lavoro, a domani. Grazie ciao. Un abbraccio a Flavio Tranquillo, e così chiudiamo il nostro programma di oggi. Zeppo di cose, ci volevano almeno 2-3 ore per raccontarvi con calma tutto quello che oggi è successo e che sta succedendo. A proposito, il Bari ha vinto 4-1 sul campo dell'Albino Leffe, stiamo parlando dei risultati di B. Il Modena ha fatto il colpaccio a Livorno, 2-1 il finale. Brescia-Mantova 0-0, Grosseto batte Vicenza 2-1, Frosinone-Pisa e Piacenza-Empoli 1-1. L'Avellino in rimonta fa il colpo a Rimini vincendo 3-2, Sassuolo batte 1-0 l'Ascoli, il Treviso batte 1-0 la Triestina. Questi i risultati della 37esima di B. Grazie a Gigi Borghi in redazione, a Giacomo Spunti in regia, con lo sport qui domani pomeriggio alle 17. Yeah.